Italia in controluce. Buona giornata ad Alessio Maurizi. A quest'ora su Radio 24 torniamo nei luoghi della cronaca, cerchiamo personaggi e storie che raccontano l'Italia in controluce. Il maltempo di queste ultime ore, vento e piogge, sta mettendo a dura prova la provincia di Messina, già colpita nei giorni scorsi dalle frane a Caronia e San Fratello, dove ci sono 1.500 persone senza casa. Le frane non si sarebbero ancora fermate, mentre si lavora per dare una scuola provvisoria agli studenti evacuati. Nel frattempo tra i cittadini si diffonde sempre più il sospetto che a causare i cedimenti non siano stati solo gli eventi atmosferici, ma anche interventi sbagliati. Nel mirino ci sono la fogna e una galleria stradale. Nino Amadore ha provato a capirci qualcosa di più. I sindaci smentiscono categoricamente, ma i cittadini continuano a ripeterlo. A provocare le frane di San Fratello e Caronia sui Nebrodi, in provincia di Messina, sarebbero stati determinanti alcuni lavori realizzati negli ultimi anni. Certo, sostiene chi si intende di queste cose, eventuali interventi sono arrivati in un corpo malato, su terreni già predisposti alla frana. Ma la pioggia di questo strano inverno siciliano potrebbe solo aver accelerato il precipitarsi di eventi che dormivano da tempo. I cittadini sono allarmati, come racconta il direttore regionale di Legambiente Sicilia, Salvatore Granata, che i Nebrodi li conosce bene. Accanto a problemi generali, insomma, che ricorrono dappertutto, nel caso di San Fratello e di Caronia, molti abitanti segnalano delle situazioni particolari che hanno contribuito pesantemente o forse addirittura determinato quello che è accaduto. A San Fratello molti abitanti sostengono che il malfunzionamento della rete fognante, della rete di smaltimento delle acque bianche e nere e quindi la dispersione delle acque nel sottosuolo abbia contribuito ad appesantire tutta la zona e quindi favorito il verificarsi della frana. Ripeto, sono delle voci che vanno ovviamente verificate, però quanto è accaduto è assolutamente compatibile con questa ipotesi. Sulla condizione di San Fratello hanno fatto verifiche anche tecnici dell'assessorato ambiente della regione siciliana. Dalla relazione geologica si potrà cominciare a capire quanto sia fondato l'allarme dei cittadini. Situazione diversa è quella di Caronia, dove c'è l'allarme dei cittadini, ma sia il sindaco Pippo Collura che altri tecnici ridimensionano la portata del fattore autostrada. Ecco la tesi di alcuni dei 70 sfollati che è stata raccolta da Legambiente. Ancora Salvatore Granata. Per quanto riguarda Caronia, sempre alcuni abitanti della zona sostengono che in occasione dei lavori di realizzazione dell'autostrada e specificatamente di costruzione della galleria, il deflusso delle acque sotterranee abbia subito una turbativa per effetto di quei lavori. Ripeto, lì l'autostrada corre a circa 70 metri più basso come quota e ad una certa distanza anche dalla frana, per cui immediatamente non si può stabilire questa correlazione. Andrebbe chiaramente indagata la situazione e vedere se effettivamente c'è un nesso di causalità tra il fatto segnalato e la frana. Però anche il modo come si è evoluta la frana potrebbe essere compatibile con questo fatto scatenante. Ma la manina dell'uomo è stata determinante in molti casi di dissesto idrogeologico, soprattutto in provincia di Messina, dove è necessario, come ha detto il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, interrogarsi sul costruito e, come ripete da sempre, Legambiente. Sentiamo ancora Granata. Queste manomissioni ci sono dappertutto. Laddove si è verificata una frana c'è chiaramente un fatto esterno che ha funzionato da detonatore ad una bomba già innescata, la classica goccia che fa traboccare il vaso. La goccia che fa traboccare il vaso chiaramente è stato l'evento meteorologico particolarmente intenso, ma non straordinario, che colpisce dei territori in buona parte percorsi da incendi, laddove la gestione urbanistica è stata orientata verso espansioni insensate, laddove le stesse opere pubbliche non hanno tenuto conto degli equilibri necessari dal punto di vista idrogeologico, laddove soprattutto è mancata una cura in termini di manutenzione, di regolazione delle acque superficiali. Italia in controluce. Così in Sicilia, adesso invece una bella storia di solidarietà tra ospedali, viaggi intercontinentali, paure e speranze. Tutto nasce da un registro che al Gaslini di Genova mette in contatto malati e potenziali donatori. Andrea Ferro. In questo registro incrociano le rotte, esistenze in bilico sul precipizio e altre che con coraggio si sporgono e diventano zavorre alle quali aggrapparsi per non precipitare, invertendo una parabola che sembrava segnata. È il registro donatori di midollo osseo dell'ospedale Galliera di Genova, che tra scienza ed umanità ogni anno salva 700 persone. Così dal 1989. Quell'anno Maria Grazia Tagliaficco iscrisse il suo nome su quel registro. Nel 1992 la chiamarono perché c'era un bambino malato che solo lei poteva salvare. Certo, il marasma nella mia vita privata e in quella che può essere la mia sfera così psicologica, perché ero mamma da poco tempo, per cui paure legate sicuramente anche a quello al quale andavo incontro. Malgrado ciò, ripeto, proprio perché ero mamma da poco tempo, mi sono sentita di affrontare questo impegno importante, proprio perché non si deve partire sicuramente sull'ala, come posso dire, di un bisogno personale. Io credo che queste siano scelte che debbano essere fatte indipendentemente dal fatto di essere coinvolti in prima persona. Arricchisce non solo chi riceve, ma sicuramente anche chi dona, perché ti trasferisce in un mondo che conosci poco. Un giorno i medici la richiamarono, i genitori di quel bambino volevano conoscerla. E qui c'è stata la seconda, diciamo così, il secondo terremoto della mia vita. Io non sapevo chi avrei potuto conoscere, quale potesse essere la reazione della vista della mia persona e di conseguenza le reazioni, per cui ho preferito desistere da questa, insomma, richiesta. Filippo Fassio, 30 anni, medico immunologo di Pistoia, invece ha conosciuto la signora del Texas che gli donò il midollo. Ecco il suo racconto. Quando io ho fatto il trapianto di midollo nel 95, le regole erano più flessibili che adesso, però ci doveva comunque essere un anno di anonimato. Dopo un anno entrambi abbiamo voluto conoscerci, perché ovviamente il consenso deve essere da ambo le parti, per cui ci hanno dato i rispettivi recapiti e io ho telefonato alla mia donatrice, che si chiama Barbara e abita in Texas, e abbiamo deciso di conoscerci, per cui sono andato a trovarla in Texas e in quell'occasione lei ha organizzato oltretutto un bellissimo ricevimento di beneficenza per quindi aumentare i potenziali donatori nel registro americano. L'avventura di Filippo Fassio iniziò all'età di 15 anni. Io ero un quindicenne normalissimo, oltretutto stavo bene, ho fatto degli esami di routine per tutt'altro motivo e è emerso un quadro ematologico francamente alterato. Per cui dal giorno dopo un po' tutta la vita è cambiata, fino alla decisione alcuni mesi dopo che l'unica alternativa possibile, l'unica strada era il trapianto. Una volta attivata la ricerca e trovato il donatore, sono stato ricoverato al Gaslini nella cameretta cosiddetta sterile, dove sono rimasto per 70 giorni dopo il trapianto di midollo, e fortunatamente diciamo tutto poi è andato bene, per cui progressivamente io poi sono uscito, ho potuto riprendere alla mia vita normale, continuare la scuola. Dopodiché, probabilmente influenzato anche da questo evento, ho deciso di fare il medico. Italia in controluce. La solidarietà può nascere anche dalla musica, è successo altre volte in passato e succederà ancora mercoledì prossimo a Milano, con il pensiero rivolto ad Haiti. Marta Cagnola. Chi lo dice che l'economia non ha un'anima? Basta mettere insieme la capacità organizzativa dell'Università Bocconi e la voglia di fare del bene. Il terzo ingrediente è la musica. Si chiama Blues for Haiti la sera di mercoledì 17 marzo, una notte di jazz per aiutare il paese centroamericano colpito dal terremoto. Bruno Pavesi, consigliere delegato dell'Università Bocconi. C'è stato un enorme consenso dalla base che voleva fare delle donazioni. Base sono gli studenti, la struttura dell'università, la facoltà e il personale amministrativo. Abbiamo cavalcato un'idea. Abbiamo trovato una risposta straordinaria degli artisti, siamo usciti con una Blues for Haiti, con un titolo che non è tipico bocconiano, no? L'avessimo fatto queste donazioni uno a uno sarebbe stato forse un po' più difficile, molto meno visibile, con molto meno entusiasmo d'accompagnamento. fine ne è uscito un cast che tanti festival possono solo sognare. Il direttore artistico, giovane pianista, laureato e docente Bocconi, Paolo Alderighi. Bisogna dire che gli artisti hanno aderito con entusiasmo e ovviamente sono state contattate molte altre persone che però non hanno potuto esserci e sono state comunque gentili, hanno risposto. Siamo contenti perché comunque sono nomi conosciuti anche al grande pubblico. Gli stessi jazzisti sono molto diversi tra di loro, pur essendo jazzisti, perché abbiamo Franco Cerri, Enrico Intra, abbiamo Gabriele Mirabassi, che è un clarinettista strepitoso, che però suona una musica più vicina alla cultura della musica brasiliana. Abbiamo Karin Schmidt, che è un soprano che fa crossover. Paolo Tomelleri, che invece insieme a Emilio Soana, clarinettista e trombettista, sono più legati al genere swing e jazz, diciamo, più classico. E poi chiaramente tutti i non jazzisti: c'è il cantautore Giorgio Conte, c'è Fabio Treves, che è un bluesman, c'è Alex Britti, c'è Antonella Ruggero, che lavora spesso con dei jazzisti, anche mercoledì 17 suonerà con dei jazzisti, ci sono Eugenio Finardi, Andrea Mingardi, quindi veramente è molto eterogeneo. I biglietti costano tra i 25 e i 90 euro e si trovano su Ticket One, ma si può anche contribuire online. Con 10 euro si dona un mattone al progetto Francisville della Fondazione Francesca Rava. È tutto per questa edizione d'Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Paolo Corleoni. Potete scriverci a controluce@radio24.it, siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce. Ci sentiamo domani all'edizione delle 6.30. Da Alessio Maurizi, buona giornata.